Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Naturalmente inevitabile direi partire dal successo di Angela Merkel, dunque la cancelliera che si succede a se stessa di fatto, e la tanto attesa implicazione sul fronte del processo europeo. Abbiamo parlato in queste settimane di federazione light, abbiamo parlato naturalmente di futuro, tutto legato, dicevamo, a quello che accadrà in Germania. Bene, in Germania è stato deciso, il primo tra i primi a felicitarsi c'è stato il responsabile del mercato unico Barnier, che abbiamo sentito poco fa. Una vittoria, dice, importante per tutta l'Europa. L'ha fatto nell'occasione della presentazione della settimana per il mercato unico. Laura Bettini l'ha seguito per noi. Laura, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, non ha lesinato assolutamente, complimenti alla cancelliera Merkel e il commissario Barnier nel suo intervento di oggi. La conosco bene, ha detto, a buon senso, energia, pragmatica, ama l'Europa. Eppure non ha avuto vita facile Barnier negli ultimi mesi con la Merkel. L'ultima tensione, ricordiamo, è stata forse quella sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi per l'unione bancaria, che li ha visti su fronti opposti, ma richiesto di un commento sulle elezioni ha minimizzato le divergenze. Un commentaire c'est que au Conseil européen. Il mio commento è in Consiglio europeo, dice, ma anche in tutte le altre occasioni, Madame Merkel ha chiesto la realizzazione dell'unione bancaria, poi ci sono opinioni diverse su come, sui dettagli, ha detto, ma questo è normale. Insomma, l'impressione che ne abbiamo tratto è che Barnier stia dicendo a Berlino la campagna elettorale è finita, basta nazionalismi, torniamo ai principi generali e ai grandi obiettivi continentali comuni. Come dicevi Gigi, l'occasione è stata di commentare le elezioni tedesche, è stata la presentazione del mese del mercato unico, ecco, che arriva a, diciamo, a celebrazione anche di un decennio. Ecco, quali sono gli obiettivi allora di questa settimana? Gli obiettivi, tra l'altro, la prima settimana è quella dedicata al lavoro, è quella che inizia oggi, poi è un mese intero dedicato al mercato unico. Gli obiettivi sono quelli di trasformare, quindi pensare a quale mercato unico davvero può essere utile agli europei e farlo attraverso la partecipazione degli europei stessi, quindi cittadini, imprese, enti, possono partecipare online. Questa settimana si parla di lavoro, nelle prossime settimane si parlerà di diritti sociali, di banche, di e-commerce, quindi un po' tutto lo scibile che riguarda il mercato unico. Si concluderà questo lavoro con un dibattito televisivo che verrà trasmesso su Euronews il 23, e poi tutto questo materiale ovviamente verrà raccolto dalla Commissione e trasmesso a chi seguirà poi il commissario Barnier in futuro. Grazie Laura Bettini. Ho detto un decennio, sbagliando, è un ventennio, visto che siamo all'inizio degli anni 90 con la formazione del mercato unico. Quindi lo scopo anche di tutti questi incontri, settimana scorsa vi abbiamo parlato degli incontri con Viviane Reding a Trieste, è un po' di tirare le somme e di preparare ovviamente le elezioni di primavera, di preparare queste elezioni che dovrebbero essere le prime con nomina dirette del Presidente della Commissione. Insomma, un settennato in cui di fatto l'Europa dovrà scegliere se andare verso quella forma cosiddetta ormai della federazione light, oppure se in qualche modo esaltare i localismi. Le due strade ovviamente non possono andare d'accordo, e oggi probabilmente con la vittoria della Merkel si libera anche il terreno per chiarire il percorso. Grazie ancora Laura Bettini. Abbiamo ancora, a proposito di temi europei, nei giorni scorsi è uscita una classifica piuttosto interessante, riguarda la felicità. Bene, è venuto fuori che la Bulgaria è il paese europeo che occupa uno dei posti più bassi nella classifica. Il nostro Federico Taddia, durante l'altra Europa, ne ha parlato con Atanas Tsonov, un collaboratore dell'ANSA dalla Bulgaria. Sentiamolo. Purtroppo la situazione adesso si è andata aggravando negli ultimi anni, e forse non soltanto per la crisi mondiale, ma per tutto quello che si è accumulato dopo gli errori che si sono accumulati dopo la caduta del regime comunista. E qui lo stipendio è 350-60 euro in media, qui abbiamo il LEF praticamente, non siamo ancora nell'eurozona, ma la gente è costretta di cercare altri lavori per poter, come si dice, sbarcare il lunario. Infatti i prezzi dei generi alimentari si avvicinano moltissimo ai prezzi in Italia, e noi sappiamo la differenza non soltanto tra tra gli stipendi bulgari e quelli italiani, ma anche prendiamo la Germania, la Francia e così via, la gente un po' si chiede, noi stiamo dando tutto per essere bravi nell'Unione Europea, ma perché tutte le cose sono ormai come nell'Unione Europea, fuori degli stipendi. Dunque, questa è la posizione che avete sentito, una specie di riflessione sulla Bulgaria, paese europeo che occupa di fatto il posto più basso nella classifica UE nel rapporto sulla felicità presentato venerdì scorso. Con questo abbiamo concluso, Europa 24 torna naturalmente domani intorno alle 13.15, un saluto a tutti voi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.